Il falco e il gabbiano. E il gabbiano di Enrico Ruggeri. In giro per il mondo ci sono parecchi ristoranti nei quali, se chiedete il pepe, i camerieri arrivano al vostro tavolo con un'enorme macina pepe magnum. È un oggetto un po' enfatico, diciamo, quello che permette al cameriere di macinare il pepe sul vostro piatto con un po' di teatralità. Avete presente, no? Di cosa sto parlando? Bene, questo oggetto in molti posti del mondo viene chiamato il Ruby Rosa. Molti avventori addirittura negli Stati Uniti chiedono una spolverata di Ruby Rosa piuttosto che chiedere il pepe. Bene, questo macina pepe magari può variare per dimensioni e materiale, ma la sua caratteristica principale è quella di avere una forma decisamente fallica. Oggi vi raccontiamo la storia dell'uomo a cui è stato dedicato questo macinapepe, e gli è stato dedicato anche un cocktail molto forte a base di rum cubano, il Ruby Rosas. Oggi vi raccontiamo la storia del diplomatico dominicano Porfirio Ruby Rosa, un pilota automobilistico, un giocatore di polo, amante della bella vita, ma soprattutto delle belle donne, soprannominato Mr. Ever Ready, il signor sempre pronto. Questo naturalmente per le sue famose prestazioni sessuali. È considerato il più grande playboy del XX secolo, conosciuto anche per il suo stile sfarzoso di vita, per avere sposato alcune delle donne più ricche del mondo. E Ruby Rosa ha avuto una vita straordinaria, vissuta sempre a 100 all'ora, ha vissuto nei luoghi più belli della terra, è stato amico dei personaggi più potenti, ricchi del mondo, ha frequentato politici, industriali, divi del cinema, ha sposato le ereditiere più ricche del suo tempo, tutto questo senza lavorare un giorno della sua vita. Ascoltate come lo descrive lo scrittore dominicano Pablo Clase, che è il suo biografo, ha scritto il libro Porfirio Ruby Rosa e il premier playboy del mondo. Andava in buono carro, in carro Ferrari. Gli piacevano le belle macchine, soprattutto le Ferrari. Vestiva molto bene, frequentava le persone più importanti della sua epoca, anche i re, gli stilisti di moda più famosi, gli artisti del cinema, gente importante della politica come i Kennedy. Era amico dei Kennedy, amico di Frank Sinatra, amico del re d'Egitto Farouk, amico della principessa di Grecia. Amico della principessa di Grecia. Ma non sottovalutatemi, noi non stiamo per raccontarvi solo una storia fatta di auto, donne, feste, eccetera, perché la vita di Ruby Rosa è stata molto più di questo, perché la sua grande personalità, le sue amicizie, le sue doti diplomatiche hanno fatto di lui non solo un seduttore adorato dalle donne, ma hanno fatto di lui un uomo che tutti i ricchi volevano alle loro feste, un diplomatico, ha dialogato con gente come Perón e come Hitler, un agente segreto che probabilmente ha anche organizzato un assassino. Insomma, è una vita di quelle che meritano di essere raccontate. Porfirio Ruby Rosa Ariza nasce a San Francisco de Macorís, nella Repubblica Dominicana, 22 gennaio 1909. Il padre è un generale dell'esercito che intraprende la carriera diplomatica, che nel 15 diventa ambasciatore dominicano a Parigi, e lui cresce nella capitale francese. Realtà dorata, ricchezza, bella gente, vita agiata. Insomma, acquisisce quel modo di essere, di atteggiarsi, di vestirsi, che sarà la sua caratteristica, il suo fascino per tutta la vita. La Parigi degli anni 20 è bellissima, è scintillante. Per lui, che è un adolescente bello, ricco, elegante, significa iniziare a vivere precocemente. È una tradizione dominicana quella di svezzare i ragazzini maschi a 12 anni portandoli nei bordelli. A 12 anni non è male, insomma, come partenza. Insomma, lui entra subito a contatto con un certo mondo, impara l'arte della seduzione, apprende come trattare con le donne. Insomma, gli viene insegnato come renderle felici. A 17 anni torna in patria perché il padre vuole che studi legge per seguirlo nella carriera diplomatica. Però Porfirio decide di entrare nell'esercito perché non ha molta voglia di studiare, vuole dedicarsi agli sport, predilige i cavalli, è un grande cavallerizzo, si appassiona al gioco del polo e diventerà un campione di polo. E poi però gli piacciono le auto, quelle da corsa, diventa fortissimo, partecipa a molte gare, ne vince diverse, insomma è un ragazzo d'oro. Però la cosa che gli riesce meglio di tutte è quella di conquistare le ragazze, quello che nella cultura dominicana viene definito un tigrere, cioè un personaggio astuto, incantatore, attraente, che sa muoversi con abilità per conquistare qualsiasi donna. E questa è l'attività a cui Porfirio dedicherà la maggior parte del proprio tempo per tutta la vita. Il falco e il gabbiano. L'incontro chiave è del 1931. Porfirio Rubirosa ha 22 anni, conosce un uomo, voi direte strano, poi capirete perché. È un uomo particolare, è Rafael Leonidas Trujillo. L'anno prima, con un sanguinoso colpo di Stato, ha preso il potere instaurando quella che va sotto il nome di Era di Trujillo, 30 anni di dittatura di estrema destra, spesso ovviamente cruenta, repressiva, finanziata dagli americani, insomma la classica dittatura di estrema destra del Centro America di quel periodo. Trujillo è un grande appassionato di cavalli, come Rubirosa, gioca a polo e quando lo conosce lo nomina immediatamente membro della guardia presidenziale e lo trasferisce nel suo palazzo. Però Trujillo non aveva fatto i conti con la capacità di Rubirosa, le capacità amatorie, col suo fascino. È stato all'università dell'amore lui e si è laureato a pieni voti perché lui mette in pratica tutto quello che ha imparato nei bordelli francesi, i segreti che le esperte prostitute parigine gli hanno rivelato, e lui deve conquistare la più inespugnabile di tutte le ragazze dominicane, quella più protetta, quella più ambita, ma anche, come dire, un caso delicatissimo. Qua si cammina sul filo perché la figlia di Trujillo, Flor de Oro, è il prossimo obiettivo di Porfirio Rubirosa. La incontra verso la fine del novembre del 32, lei ha 17 anni e lui probabilmente ha già in mente un bel piano perché fa partire la sua offensiva. Dopo poche ore lei si è innamorata perdutamente e siccome conosce il padre, che sa che ha in mente per lei un matrimonio di comodo, magari con qualche vecchio e ricco uomo d'affari, scappa con Porfirio. Anche nella Repubblica Dominicana esiste la fuitina, come nel nostro sud, cioè i due mettono di fronte la famiglia, di fronte al fatto compiuto, e il motivo pare anche lì sia la raffinata arte amatoria di Porfirio Rubirosa. Ascoltate cosa racconta il professor Lipe Collado, che è l'autore di una divertente biografia di Porfirio dal titolo L'impressionante vita di un seduttore. La principale virtù di Rubirosa era... La principale virtù di Rubirosa consisteva nel fatto che lui si era allenato all'atto sessuale. Per l'epoca era un uomo molto avanti, conosceva tutti gli esercizi che un uomo poteva fare per evitare l'eiaculazione precoce. Aveva un dominio straordinario. Arrivava all'eiaculazione solamente quando lo decideva lui. Possedeva quello che si definisce l'orgasmo corporale, senza dover necessariamente arrivare all'orgasmo eiaculatorio del membro virile. Eiaculatorio attraverso il membro virile. Sì, perché al di là delle leggende, se anche parliamo di aggeggio per contenere il pepe, ma poi dentro invece del pepe non c'è nulla, ci fai poco. Bene, lui è uno che invece è bravissimo, insomma, nel usare quell'arte amatoria, compreso l'aggeggio del pepe, evidentemente. E insomma, Flor de Oro, una volta provato cosa vuol dire andare con Porfirio, non se lo fa scappare. Trujillo scopre la tresca e prima ordina ai suoi uomini di uccidere Rubirosa. Poi però ci ripensa e capisce che un tipo così gli può essere molto utile, insomma, a distanza di una settimana dal primo incontro, Porfirio Rubirosa e Flor de Oro Trujillo si sposano. Il giovane militare si trova a 22 anni, genero dell'uomo più potente e temuto di tutto il paese. E Trujillo scopre subito le doti diplomatiche del genero, non lo vede più solo come il marito della figlia, ma come una risorsa per il paese. Continuerà a vederlo così, malgrado tutto quello che succederà nel matrimonio di Porfirio. Il legame tra Trujillo e Porfirio Rubirosa resterà per tutta la vita del dittatore e gli affiderà incarichi delicati. In cambio sarà generoso, pagherà i salatissimi conti dell'esistenza sfarzosa che Porfirio Rubirosa condurrà sempre. E il primo favore che Trujillo chiede al genero è quello di organizzare un assassinio. L'episodio è avvolto nel mistero, però c'è un dossier dell'FBI sulle attività diplomatiche di Porfirio Rubirosa. Il suocero pare proprio che abbia chiesto di far uccidere l'ex ministro degli esteri Ángel Morales, che è scappato a New York e che è sospettato di essere l'organizzatore di un golpe contro il dittatore. Rubirosa assolda un famoso killer, Luis della Fuente, che fallisce il colpo, che uccide la persona sbagliata. Rubirosa però accetta di essere coinvolto da questo fattaccio e in qualche modo rimane stretto a doppio filo con il dittatore. Però insomma sarebbe sbagliato limitare la personalità di Porfirio Rubirosa a quella di un personaggio asservito a un dittatore, a uno scagnozzo. Ascoltate cosa dice Abelardo Pinheiro, amico personale di Porfirio Rubirosa. Lui fu sempre molto indipendente, non fu quello che si potrebbe definire un alabardiero del re. Ebbe molti benefici attraverso il suo matrimonio con Flor de Oro, ma anche con le sue abilità personali, perché Trujillo era un uomo molto intelligente, molto abile, e si rese conto che Rubirosa era un personaggio che poteva aprirgli molte porte. Si utilizzarono reciprocamente. E nel 1936 Trujillo spedisce gli sposini a rappresentare la Repubblica Dominicana alle Olimpiadi di Berlino, quelle, diciamo, di Hitler, organizzate dal regime nazista. E lui sarà sul palco d'onore tra i pochissimi privilegiati della corte hitleriana. Si dice che Hitler, parlando di Porfirio, abbia detto che possedeva un magnetismo inquietante. La vita a Berlino non è male, perché lui dà sfogo a tutte le sue passioni, gare di polo dove stupisce i tedeschi per il suo accanimento, corse automobilistiche, Ferrari lanciati a velocità folli, ma soprattutto, anche se si trova nella fredda Germania nazista, certi argomenti funzionano sempre, porta il suo calore latino e sconvolge le donne tedesche, la sua fama si spande a macchia d'olio. Tutte parlano di lui e naturalmente questo arriva alle orecchie della giovane sposa Flor de Oro, che disperata fugge in patria a lamentarsi col padre. Bene, se pensate che questo possa compromettere la ascesa di Porfirio, vi sbagliate. Ascoltate il seguito di questa storia. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il dominicano Porfirio Rubirosa, il più celebre playboy del XX secolo, diplomatico, pilota, giocatore di polo, conosciuto per il suo stile sfarzoso di vita e per aver sposato alcune delle donne più ricche del mondo. Ma non è solo questo, insomma, lui è un agente segreto del suo paese, con svariati ruoli che gli ha assegnato il suo suocero, il terribile, sanguinario dittatore dominicano Rafael Leonidas Trujillo. E nel nostro racconto siamo solo al 36. Rubirosa ha 27 anni, ha sposato la figlia di Trujillo, Flor de Oro, ed è inviato dal suocero a rappresentare la Repubblica Dominicana nella Berlino nazista. La vita berlinese in quel momento è fatta di feste, di bella gente, e Ruby Rosa non perde nessuna delle occasioni che gli si presentano: il fascino, doti di ammaliatore, la sua prestanza fisica diventa una leggenda, e tutto questo arriva alle orecchie della giovanissima moglie, che chiede al padre di trasferirli a Parigi, come se a Parigi invece uno si annoiasse. E infatti a Parigi le cose peggiorano, e Flor de Oro lascia Porfirio, se ne torna tra le braccia paterne. Ma Trujillo è un uomo di mondo, ha capito fin dal primo momento che il matrimonio sarebbe fallito, ma i suoi interessi politici hanno prevalso sull'amore paterno. Insomma, non cambia nulla nei rapporti tra lui e il genero: a uno interessa il potere, all'altro i soldi. È un connubio perfetto che porta i due a mantenere un rapporto costante per tutta la vita, anche perché Ruby Rosa è uno che spende, il suo sarto è il migliore di Parigi, le scarpe sono fatte a mano, perfino la biancheria intima gli arriva da un lussuoso negozio di Londra. Insomma, essere Porfirio Ruby Rosa costa. Lui naturalmente non ha nessuna intenzione di lavorare. Ascoltate ancora il suo biografo Lipe Collado. Per Ruby Rosa la parola lavoro non si trovava nel dizionario di nessuna lingua. Per lui il lavoro era divertirsi, era vivere da bohemien. Perfino il lavoro per Trujillo come diplomatico non era un vero lavoro. Trujillo lo teneva come diplomatico in Francia, in Belgio, poi lo aveva destinato a Cuba, fu ambasciatore in Argentina, in quasi tutto il mondo. Mentre era sposato con Flor de Oro, era stato in Germania, però non aveva mai lavorato. Però lavoro nada. Ma Porfirio non si accontenta delle generose elargizioni del suocero, ha bisogno ancora di più, e quindi deve mettere in campo la sua dote migliore, il fascino. Deve trovarsi una moglie ricca, e la prima che cade nella sua rete è la famosissima cantante e attrice francese Danielle Darrieu, che in quel momento è la star più acclamata e più pagata di una Francia che ormai sta entrando in guerra, perché siamo nel 40. Lui la incontra a una festa, lei ha tutto quello che lui sta cercando, è ricchissima e famosa, è perfetta per lui, peraltro è anche molto bella, questo non è per lui un fattore determinante, ma insomma aiuta. Tra l'altro Danielle Darrieu è ancora viva, sta per compiere 100 anni. La cantante però in quel momento è sposata con un regista francese, lo lascia all'istante. 2 anni dopo, nel 42, lei e Porfirio si sposano. Danielle Darrieu viene accusata di collaborazionismo, subisce anche un attentato, lei rimane illesa. Porfirio viene raggiunto da una raffica di pallottole che lo colpiscono a un rene, quindi insomma diciamo nel posto sbagliato, rischia la vita ma ce la fa a sopravvivere. Al termine della guerra i due vanno a Roma perché lei deve interpretare un film nella capitale italiana. Una giornalista americana, si chiama Doris Duke, incontra la coppia per intervistare. Lei è bruttarella, mal vestita, alta, magra, anzi troppo alta, insomma è un genere di donna che Porfirio non avrebbe mai neanche guardato. C'è un particolare però: questa Doris Duke fa la giornalista solo per hobby, in realtà è considerata la donna più ricca del mondo, è una ereditiera del tabacco, e poi dite che fumare fa male, ha una fortuna immensa stimata in 100 milioni di dollari di allora. I due diventano amanti. Visto l'ammontare del patrimonio di Doris, nel 47 Porfirio lascia la moglie Danielle Darrieu, chiede alla giovane ereditiera di sposarlo. Lei capisce che lui mira i soldi, però non le importa. I suoi avvocati fanno firmare a Ruby Rosa un contratto blindato, un contratto prematrimoniale, ma lui lo sa che otterrà tutto quello che vuole, perché a lui non interessa che il denaro sia suo. Questa è una massima da scriversi: la maggiore ambizione degli altri è accumulare denaro, a me basta spenderlo. E infatti il suo tenore di vita raggiunge livelli stellari. La moglie, perché intanto si sono sposati nel 47, gli fa dei regali generosissimi, non so, un appartamento a Parigi, un'intera scuderia di cavalli da polo, un aeroplano, perché lui sa anche guidare l'aeroplano, e poi gli regala diverse auto da corsa, tra cui alcune Ferrari, poi gli gli regala una flotta di pescherecci in Africa. Ecco, se la vostra fidanzata vi regala una cravatta a Natale, sappiate che c'erano anche regali più interessanti. E se vi state chiedendo che cosa facesse Ruby Rosa per ottenere effetti così dirompenti nelle donne, ascoltate il suo biografo Pablo Clase. Si occupava della soddisfazione sessuale della donna. Lui si occupava della soddisfazione sessuale della donna. Non faceva come la maggior parte degli uomini, che pensano al proprio piacere e di quello della donna non si interessano. Si occupava di soddisfare la donna prima di pensare a se stesso. Non era egoista nel sesso. E come ci si può ben immaginare, questo attirava moltissimo le donne. E questo, come tu comprenderai, anche allagava le donne. Insomma, è una cosa che oggi dovrebbe essere quasi normale, però in quel mondo maschilista era evidentemente un precursore. Però insomma è evidente, cari uomini, che se volete che una donna non vi lasci, o se anche dopo che vi siete lasciati volete essere ricordati per tutta la vita, dovete dare il meglio di voi stessi per quanto riguarda l'altruismo in quel momento lì. Insomma, una volta sposato con la Duke, Ruby Rosa, se possibile, diventa ancora più introdotto nel bel mondo. L'astuto Trujillo, l'ex suocero, lo nomina ambasciatore in Argentina, e in Argentina al potere c'è Juan Domingo Perón e la sua potentissima moglie Evita Perón. Ovviamente, come pensate che vada a finire la storia? Beh, che Ruby Rosa e Evita Perón diventano amanti. Quando Doris, la moglie, lo scopre, ha una reazione estrema, fugge a Parigi dove si taglia le vene, la salvano, ma il matrimonio ormai è al capolinea. È durato solo 2 anni, ma Ruby Rosa a questo punto è decisamente ricco. A parte i regali ricevuti prima, si becca anche una buona uscita di $500,000, e ricordate che non sono di oggi, un bel vitalizio di 25.000 all'anno, con la clausola che lui non si risposi. Rientra in Francia dall'Argentina perché va evitato l'incidente diplomatico, perché insomma Perón non fu contentissimo della vicenda. E Ruby Rosa diventa il re delle notti parigine, e in questo momento mette nel suo palmarès donne come Dolores del Rio, Ava Gardner, Marilyn Monroe. Non deve essere stato difficile, Marilyn Monroe. E poi Veronica Lake, Joan Crawford, Kim Novak, Judy Garland. Alla grande, anche se si racconta che le sue tecniche spesso erano un po' crude. Si siede vicino a una donna che gli interessa, le prende la mano, se la mette in mezzo alle gambe dicendole: senti quanto ti trovo eccitante. Ecco, questa vi consiglierei di evitarla come strategia di seduzione. A volte Ruby Rosa è un po' più romantico, per esempio quando incontra Zaza Gabor in un hotel a New York ne rimane folgorato. Lei è sposata con il gelosissimo attore George Sanders, però lui le riempie la camera di rose rosse, ovviamente la conquista. E questa forse è una delle poche relazioni di Ruby Rosa che dura degli anni e dalla quale lui non trarrà beneficio economico, perché Zaza Gabor è un Ruby Rosa al femminile, una nota per entrare e uscire da matrimoni milionari che la lasciano ogni volta più ricca. Bene, mentre si trova in vacanza a Deauville in Francia con Zaza Gabor, lui fa l'incontro più importante della sua vita sotto il profilo economico. Incontra Barbara Hutton, la ricchissima ereditiera newyorkese, conosciuta col nome di Poor Little Rich Girl, cioè la povera e piccola ragazza ricca, e l'erede di due tra le dinastie più ricche e potenti d'America, i banchieri Hutton e gli imprenditori Woolworth. Lei è la classica preda facile, perché è bruttarella, ha avuto un'infanzia tristissima, quando ha solo 6 anni trova il corpo senza vita della madre suicida, e si sposerà 7 volte, e tutte e 7 le volte i matrimoni saranno fallimentari. Quando Ruby la incontra, lei ha già avuto 4 mariti, tra i quali Cary Grant. È triste, infelice, affoga i suoi dolori nell'alcol e non sa come spendere tutti quei milioni di dollari che ha appena ereditato. Beh, ci sono qua io, pensa Porfirio Ruby Rosa. Lei capitola all'istante e questa volta il botto è grosso, perché lei lo ricopre di regali: un altro aeroplano, ma non so, un'immensa piantagione di caffè nella Repubblica Dominicana. Insomma, i due si sposano il 30 dicembre del 53 e si tratta di un evento mondano di cui parlano tutti: rotocalchi, telegiornali. Barbara Hutton and her husband Porfirio Ruby Rosa leave for a Florida honeymoon. The heiress, suffering from a broken ankle, is interviewed with her fifth husband at New York International Airport. Well, I'm just going to Florida for rest until my foot heals. Could you tell why you're taking this plane? Couldn't you get a reservation? Yes, I could get a reservation, but my doctor suggested, because I can't stand it all, and he thought there'd be so many people and so many of you gentlemen that would hold up the other passengers, and I couldn't stand all that waiting. How long do you plan to spend in Florida? Oh, about 5 or 6 weeks. Are you going to have the plane stand by? No. Oh, no, it's just to go down. Insomma, praticamente gli sposi per il loro viaggio di nozze prendono un volo di linea intero alla modica cifra di $45,000. E tutto il matrimonio sarà caratterizzato da spese di questo tipo: 53 giorni di matrimonio, perché Porfirio tradisce la moglie la sera stessa delle nozze, che insomma ve lo sconsiglio, va bene tutto, ma almeno la notte di nozze, la prima. I contabili della Hutton faranno un conteggio dal quale risulta che Porfirio è costato alla moglie $65,000 al giorno, 3 milioni e mezzo di dollari per 53 giorni di matrimonio nel 1953, avete capito benissimo. E Porfirio chiude il matrimonio con un buon bilancio, a parte la piantagione di caffè, l'aereo, altre automobili, altri cavalli e poi una buona uscita di 3 milioni e mezzo di dollari, coi quali insomma nel 53 si sta benino. Lui prosegue la sua carriera di playboy, monitorato dai paparazzi di mezzo mondo, da Monte Carlo a Capri, sempre naturalmente in dolce compagnia. Un giornalista che gli chiede che lavoro faccia, lui risponde: lavoro, io non ho tempo per lavorare. Non ha neanche più l'incarico diplomatico, perché nel 61 il suo ex suocero Trujillo viene ucciso in un attentato, ma lui ormai non ha più bisogno di quel tipo di appoggio. Ha giocato tutte le sue carte, vive tranquillamente di rendita, dandosi alla pazza gioia, dandosi alla corsa, al polo. Peraltro, non avendo più preoccupazioni economiche, finalmente può scegliersi una donna che gli piace veramente. Così a 47 anni si innamora di una bellissima modella francese che ha 19 anni, Odile Rodin, con la quale rimane sposato per 9 anni fino alla sua morte. È la mattina del 5 luglio del 65. Ruby Rosa sta rientrando a casa dopo una notte di baldoria, di bevute, per festeggiare la vittoria della Coppa di Francia della sua squadra di polo. Perde il controllo della sua Ferrari 250 GT Pininfarina e va contro un castagno sul Bois de Boulogne a Parigi. Muore sul colpo a 56 anni, alla fine di un mito, l'ultimo esemplare di una razza considerata estinta, un artista della seduzione, un praticante di un mestiere che richiede fantasia, eleganza, savoir-faire, prestanza fisica, altruismo, psicologia e predisposizione. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e non faccio battutacce su questo, perché comunque Ruby Rosa ha saputo volare in alto, anche se con una vita sicuramente discutibile, però non ha mai fatto male a nessuno, tranne forse che qualche assassino in gioventù, e non ha mai lavorato. Ciascuno di noi può rischiare di cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se volete mandare dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarmi sul nostro sito o sui miei social o sui nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri.